X24, la storia. C'era una volta un uomo che con il suo zaino in spalla viaggiava per il mondo, combattendo battaglie in difesa degli esseri umani e dell'ambiente. Come armi quest'uomo, che portava giacche troppo grandi, utilizzava il pensiero, la parola, la gentilezza, l'attenzione, la politica e i sogni. Guardava le persone e le cose attraverso i suoi occhiali speciali, occhiali che probabilmente gli davano una prospettiva più ottimistica. Come una trottola girava di qua e di là, parlando con tutti in tutte le lingue. Come faceva ad amare tutti? Come faceva a sostenere tutti e tutte le cause? Sono mai precipitata nel cordoglio, vero? Perché prevale la festa di questa venuta, diciamo così, di Alex sul fatto che se ne sia andato. Ha cercato di modificare la situazione e la testa della gente, ha cercato di far entrare idee nuove nella testa della gente. Lui era europeo, era italiano, era sudtirolese, però con una visione che forse riusciremo a fare in 50 anni. Questa società è diversa per il fatto che ci sia stato Langa. L'uomo di confine è l'uomo che abita da una parte e anche dall'altra. Abita una lingua e anche l'altra. Abita una cultura e anche l'altra. Gli sono necessarie entrambe, questo è l'uomo di confine. Costruire la pace non vuol dire il quieto vivere, non vuol dire starsene in pace. A me manca ancora oggi, perché spesso parliamo a casa di Langa. Lui era molto anche affezionato ai miei bambini che erano piccoli, loro hanno sofferto, hanno pianto quando lui se n'è andato. E loro sanno che lui è stato il più bravo politico sudtirolese dell'ultimo secolo. Il più impolitico dei politici, di sicuro il più coraggioso. Alexander Langer, ecologista, pacifista, tra i fondatori di Lotta Continua e poi dei Verdi, che ha rappresentato due volte al Parlamento europeo. È stato un uomo senza patria e con molte patrie. Oggi a Mix24 raccontiamo la sua storia. Sudtirolese di Vipiteno, italiano di lingua tedesca, ha speso la sua vita per costruire ponti, unire popoli, creare un domani di pace e di confronto. Dopo la caduta del muro di Berlino, Langer è stato tra i primi a intuire che un mondo era finito e che quanto stava accadendo nei Balcani non era una guerra locale, ma un movimento sismico globale. L'Europa non poteva far finta di niente. Ma c'è di più. Solo una nuova politica ecologica, una conversione ambientale, sostiene in più occasioni, potrà salvare il destino del pianeta e dei suoi abitanti. Langer intuisce tutto troppo in fretta. Viaggiatore instancabile, percorre milioni di chilometri per conoscere persone, nuove realtà, altri mondi, fino a quando, più disperato che mai, decide di andarsene a 49 anni il 3 luglio del 95. Si toglie la vita a Pian dei Giullari, appena fuori Firenze. Ce ne parlano il membro della Fondazione Langer, Enzo Nicolodi, e il filosofo Massimo Cacciari. La sua analisi è sempre stata, nel momento in cui crolla questa separazione tra il mondo dell'est e il mondo dell'ovest, crolleranno diverse realtà e si apriranno delle chance, però insieme alle chance positive si potranno aprire anche delle crepe, delle falde molto negative, molto di sofferenza. Langer fu tra i pochi allora che a comprendere che non si aprivano meravigliose sorti e progressive per l'umanità. Ah, che bello, questa fu la reazione generale, che bello, cade il muro, finisce il comunismo, sono finite le grandi guerre europee, pace, prosperità, democrazia, benessere. Questo era l'atteggiamento della opinione comune e, come sempre, volgare. Soprattutto presente nel nostro paese. Langer invece capiva che si apriva un mondo di altri conflitti, di altre contraddizioni che potevano essere anche al limite più tragiche di quelle da cui provenivamo. Langer comprese che sarebbe stato necessario formidabili nuove forme di governo politico per mantenere in pace i regimi e gli imperi che si andavano dissolvendo. E questo non era semplice, soprattutto nel suo mondo poi da comprendere, perché poi era il suo mondo quello, il mondo da cui veniva Langer, quello che più tendeva ad interpretare in un senso, come dire, democratico, democraticistico i processi che si stavano avviando con la caduta dei totalitarismi, con la caduta del muro, con la fine del socialismo reale. L'esigenza, la necessità di una potenza europea a 360 gradi. All'inizio degli anni 90 questa era la sua indicazione. Badate, amici, compagni, ex compagni, che dovete diventare europeisti e seriamente europeisti. Smettetela di ragionare in termini di movimentismi localistici, smettetela di ragionare nei termini in cui ancora bene o male si ragionava negli anni 60, eccetera, eccetera, eccetera. L'orizzonte è questo, la prospettiva è questa. Se fallisce questa prospettiva, falliscono tutti. Destra, sinistra, centro, sopra, sotto. Falliscono tutti. Quella che raccontiamo oggi è la storia di un uomo di confine, un portatore di speranza, il più importante politico sudtirolese, Alexander Langer. Continuiamo subito dopo la viabilità. Mix 24, la storia. Tra i proponimenti principali oggi metterei quella di costruire un'Europa della convivenza rispetto al pericolo, viceversa, di nazionalismi, di xenofobia, di ricaduta nelle guerre. Bentornati a Mix 24, avete sentito un intervento di Alexander Langer nella Tribuna Politica del 1994. Quella che raccontiamo oggi è la sua storia. Politico coraggioso, Alexander Langer viene eletto nel 1989 al Parlamento europeo, diventando subito portavoce di un'Europa della convivenza e simbolo di un impegno in favore della cooperazione e della pace, come spiegano l'economista Guido Viale e il collaboratore di Langer, Edi Rabbini, oggi presidente della Fondazione Langer. Quando è stato eletto nel Parlamento europeo, ed era un parlamentare di prima nomina, è stato quasi immediatamente nominato come missionario e messaggero di pace in tutti i paesi dove c'erano delle situazioni di guerra o di tensione. Cioè, una responsabilità immensa affidata a un uomo solo fa capire come immediatamente si fossero resi conto delle doti eccezionali. Già dal 92 quasi tutte le risoluzioni, e sono risoluzioni molto importanti, anche molto innovativi sull'idea di come affrontare la guerra, sono scritte da lui e approvate dal Parlamento europeo nel suo complesso. Così parla Alexander Langer il 9 ottobre 1991 al Parlamento europeo. Noi diciamo che la guerra si ferma più facilmente se si riesce con la politica che non con azioni militari. Ciò non vuol dire che noi non siamo a favore, come abbiamo già detto, di una forza di interposizione, ma interposizione è molto diverso che un corpo di spedizione militare. Questa è la ragione per cui chiediamo a tutte le parti in conflitto di accettare una forza di interposizione e vogliamo un mandato internazionale delle Nazioni Unite perché possa essere inviata. Ho avuto la fortuna di essere con lui al Parlamento europeo e mi ha portato a vedere quello che era il suo lavoro. Mi aveva molto colpito l'attenzione e la cura che aveva nel salutare tutte le persone che incontrava lungo i corridoi o in ascensore, e soprattutto era stato molto bello vedere come tutti ricambiassero l'affetto con lo stesso sguardo proprio di affetto. Avete sentito Sabina Langer, nipote di Alexander. Se davvero aprile è il più crudele dei mesi, non potremmo mai dimenticare l'aprile del 1992. Il 6 aprile esplode il nero mattatoio jugoslavo. Inizia l'assedio di Sarajevo, fino ad allora città della convivenza di etnie e religioni diverse. Per 43 mesi, circa 4 anni, la città verrà cerchiata, affamata, bombardata dalle truppe serbo-bosniache. Un pacifista come Langer non può assistere inerte al silenzio dell'Europa. Lui che si spende per il dialogo e la convivenza nei paesi travolti dai nazionalismi. Langer lancia appelli, si ostina a costruire ponti tra parti diverse, incontra gente a Sarajevo, a Mostar, a Tuzla, in tutta la Bosnia, convinto da sempre che occorre lavorare per la pace. Lo dichiara lui stesso nel 1993 nella trasmissione Milano-Italia. E ce ne parla poi il filosofo Massimo Cacciari. Ma io credo che si deve stare molto attenti a non invocare un generico uso delle armi. Ci sono alcune cose che anch'io, per esempio, credo che possano e debbano essere fatte. Per esempio, da tempo si poteva impedire ogni forma di bombardamento aereo sulla Bosnia Erzegovina. Questo poteva essere fatto anche senza grande sforzo militare e dava un segnale chiaro. Pensare di mescolarsi a questa guerra con un ulteriore intervento a fianco dell'uno o dell'altro, io credo che purtroppo non fermerebbe questa guerra. Questa città assediata, con il mondo, che l'Europa in particolare, che guardavano come Sarajevo fosse appunto, che dico l'Afghanistan, ma neanche, cioè è pazzesco, no? Sarajevo, dove si è scatenata la prima guerra mondiale, insomma più Europa di quella, no? E l'Europa stava lì, e ognuno cercava di prendersi la sua fettina di Jugoslavia, no? Allora la Germania si era presa la fettina slovena e fine dei giochi, Madre Chiesa e l'Italia, la fetta croata e saluti e baci dopo un po' di morti, anche lì di stermini, di bombardamenti eccetera eccetera. Quelli, ma chissà chi sono, metà sono musulmani, metà ebrei, metà cristiani, cattolici, ortodossi, e beh, lasciamo che si ammassacrino e poi in qualche modo ne tireremo fuori i resti. Cioè, fu duro per tutti e per Langer in particolare. E siccome ha preso molto sul serio il suo impegno politico, il suo mandato di allora, è andato a vedere di persona, è andato a parlare, è andato a vivere, ha fatto molti viaggi e sì, sicuramente questo lo ha sconvolto e penso che sconvolgerebbe qualsiasi persona che si occupa di pace e per la prima volta in vita sua tocca la guerra. Avete sentito Peter, fratello di Alexander Langer. Sarajevo, Mostar, Tuzla. La guerra nella ex Jugoslavia si avvia verso una catastrofe senza fine. Indifferente, l'Europa continua solo a guardare e Langer si sente impotente. Grida: non servono più i caschi blu dell'ONU inviati come osservatori neutrali che sono diventati ostaggi dileggiati. Occorrono soldati per fermare l'aggressione, proteggere le vittime, punire i colpevoli. Ce ne parlano lo storico Fabio Levi e l'economista Guido Viale. L'idea di invocare un intervento armato, mirato, delimitato, chiaramente finalizzato a sbloccare la situazione, eccetera, era un'idea che non gli è venuta improvvisamente nel 1995, ma un'idea che Langer aveva maturato da tempo. Sapeva che quelle idee avrebbero prodotto una rottura grave, no? Anche con molte persone con cui aveva collaborato fino a quel momento. E in questo si è trovato di fronte un fronte di opposizione, comunque di pareri contrari molto alto, alcuni dei quali sono sfociati in insulti nei suoi confronti, altri semplicemente in un ritrarsi o in posizioni critiche. Riconosco che anch'io in quel periodo ero contrario all'intervento armato in Bosnia. Anche in quel caso Langer non era andato a testa bassa contro i suoi avversari, aveva cercato di spiegare e di farli ragionare su, per che si comprendesse quali erano le ragioni della sua presa di posizione. decise di andare a Cannes insieme a un buon numero di deputati verdi, di altre personalità, per cercare di convincere i governanti europei a prendere le iniziative del caso. Lì Chirac, che era da poco stato responsabile di un'esplosione nucleare, ebbe la faccia tosta di dire che il guerrafondaio era Langer. Se non c'è un'unione politica, se non c'è una potenza politica, decade anche come potenza economica. L'idea che l'Europa possa essere soltanto un mercato comune, e non lo è, lo fosse, non è né un mercato comune, né una politica sociale comune, né una politica fiscale comune, quindi non è neppure un mercato comune, ma anche se fosse un mercato comune non basta fare una potenza politica, e laddove non c'è potenza politica alla fine non c'è neppure una potenza economica, ed è quello che sta avvenendo. Avete sentito Massimo Cacciari. Alexander Lange si batte per una soluzione pacifica in nome di un comune ordinamento europeo. Ne parla così lui stesso nella trasmissione Milano Italia di Gad Lerner. Mi sembra sia oggi il bisogno di un tetto comune, un ordinamento comune di giustizia europeo. Tutti quelli che gridano forza qua, forza là, rischiano di non cogliere l'esigenza di un comune ordinamento europeo. Langer disse poco prima di morire in un appello ai leader europei: l'Europa nasce o muore a Sarajevo. Allora era immediato il significato, era un grande appello all'Europa affinché si rendesse conto di quello che succedeva nel giardino di casa. Vedendo quello che l'Europa ha fatto poi per la Bosnia e quello che sta facendo oggi con dei complessi negoziati per l'adesione, con dei tira e molla snervanti, ma si può dire che l'Europa forse no, ma la sua politica estera a Sarajevo è morta. Avete sentito il politico Francesco Palermo. Alexander spende tutta la vita a costruire ponti, a creare collegamenti fino a diventare lui stesso ponte. Sentiamolo. Sul mio ponte si transita in entrambe le direzioni e sono contento di poter contribuire a far circolare idee e persone. Primo problema che si è trovato ad affrontare da ragazzino, e poi un problema che si è portato dietro per tutta la vita, è stato quello di garantire un'adeguata convivenza fra le diverse componenti della popolazione dell'Alto Adige su Tirolo, la sua regione di origine. Avete sentito lo storico Fabio Levi. Langer cresce in una terra divisa. In Alto Adige, fin da bambino, conosce il dramma delle contrapposizioni tra gruppi linguistici diversi. Sente le bombe esplodere, vede i tralicci saltare nel lungo periodo di attentati dei separatisti sudtirolesi. Langer dà subito battaglia quando diventa obbligatorio, attraverso il censimento, dichiarare la propria appartenenza a un gruppo specifico ben definito. O si è italiani, o si è tedeschi, o si è latini. Per Langer questa norma cardine del nuovo statuto dell'autonomia approvato nel 72 non è la soluzione giusta. Invece di unire, divide ancora di più la popolazione, che così viene schedata e rinchiusa in vere gabbie etniche. Ce ne parla lui stesso nel 1981 al TG2. Se si fa andare in porto questa schedatura etnica senza che nessuno la contesti, senza che nessuno dica di no, allora verrà incoraggiata sempre di più una gestione tutta separatista della nostra autonomia. Al suo fianco in questa battaglia Reinhold Messner, che ricorda così quel momento. Tutti e due abbiamo detto no al censimento. Io in questo caso seguivo Langer e sapevo perché. Oggi sono fiero di essere con Langer nel nido dei traditori, no? No, perché non abbiamo fatto il loro gioco, perché non abbiamo seguito questa politica di dividere i gruppi linguistici. Lui diceva che bisogna essere un po' dei traditori. Tradire vuol dire andare oltre e fare oltre, no? E dice, e sperate di trovare in un altro posto qualche altro traditore che come voi viene verso di voi e porta oltre dalla sua zona verso di voi una cosa nuova. Era Lidia Leonelli Langer, cognata di Alexander. Su Mix 24 continuiamo subito dopo la pubblicità. Dove nasce tutto il cibo del mondo? Da dove arriva il pomodoro? Chi sostiene la terra? Le domande dei bambini, le risposte degli scienziati. Da cibo a evoluzione, da spreco a sostenibilità. Le grandi parole di Expo raccontate ai più piccoli. Telmo, sei sicuro? Riusciremo a spiegare anche parole tipo biodiversità? Certo Federico, è la diversità degli animali e delle piante. E ci sono un sacco di sorprese. Tu per esempio sapevi di essere parente della banana? No, però vabbè, se lo dice un filosofo della scienza mi sa che ci devo credere. Vi aspettiamo ogni domenica alle 9 con interviste, esperimenti, storie, filastrocche e tante curiosità. Con Telmo Pievani e Federico Taddia, Terra in Vista, l'Expo come non l'avete mai visto. Proprio come voi, di chiacchiere non ne possiamo più ed è per questo che ci occupiamo solo dei fatti. Un'ora di informazione dall'Italia, dall'Europa, dal mondo, con servizi, interviste e analisi. Vi aspetto con tutta la redazione di Radio 24. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Da lunedì a venerdì alle 13 con Simone Spezia. Mix 24. La storia. Noi eravamo tre fratelli, siamo nati molto vicini uno all'altro, a distanza di un anno e mezzo, quindi Alexandra, che era il maggiore, aveva 3 anni appena più di me, e quindi noi ragazzi eravamo sicuramente molto uniti, eravamo una specie di banda. Siamo cresciuti con queste due lingue, due culture fin dall'inizio, per il semplice fatto che i nostri genitori già la vivevano. Rieccoci a Mix 24. Avete sentito Peter, fratello di Alexander Langer. A Vipiteno, la casa dove Langer è nato il 22 febbraio del 1946, è proprio accanto alla Torre Civica, simbolo della cittadina sud tirolese. Padre medico, madre farmacista, Alexander cresce in una famiglia democratica e borghese, dove, come dirà da adulto, si respira un clima molto rispettoso e tollerante. La sua è una famiglia laica. Quando poi Langer andrà a Bolzano all'istituto dei Francescani per frequentare medie superiori, scoprirà la potenza del Vangelo e la forza rivoluzionaria del cristianesimo. Ce ne parlano lo storico Fabio Levi e l'imprenditore Lageder. Langer ha scelto il cattolicesimo e lo ha scelto da ragazzino. Non è diventato cattolico perché qualcuno glielo abbia imposto, perché il clima familiare lo portasse in quella direzione. Lui era figlio di padre ebreo, di madre cattolica, peraltro non particolarmente religiosi, quindi la sua scelta è stata una scelta meditata. Dopodiché è vissuto in un ambiente in cui il cattolicesimo aveva una importanza notevole. Sono stato un ragazzo di 12 anni quando è morto mio padre. Chiaramente un momento difficilissimo per tutta la famiglia. Mi scrive una persona che non conosco, che non si fa riconoscere, e mi scrive di questa difficoltà che sicuramente trovo non avendo più il padre, e che lui vorrebbe essere un po' il mio angelo custode. E qualche settimana dopo, tornando a casa lungo la strada, io ero a piedi, mi si avvicina appunto Alexander. E mi ha detto: ecco, io sono quello che ti ha scritto, e così è nato questo rapporto più intenso. Lui aveva scoperto la dirompenza rivoluzionaria del Vangelo, e proprio per il carattere che aveva, lui diceva: queste cose si vivono, non si dicono, si vivono. E così abbiamo cominciato, lui ha cominciato a approntare dei luoghi in cui era possibile trovarsi, e questo ha reso possibile una frequentazione che era all'inizio una frequentazione soprattutto di idee. Avete sentito Lidia Leonelli Langer, cognata di Alexander. Il primo ideale universale che riesce a convincermi e coinvolgermi, così afferma Langer, è quello cristiano. Leggo, rifletto, prego. Già a 15 anni scrive nella rivista della Congregazione Mariana Offenes Wort, parole aperte. Dopo la maturità Langer va a studiare giurisprudenza all'Università di Firenze. Qui conosce Valeria Malcontenti, che diventerà poi sua moglie. Con lei frequenta i nascenti movimenti del dissenso cattolico. Conosce Don Mazzi e la comunità dell'Isolotto, Padre Balducci, Giorgio La Pira. L'incontro più profondo, dirà poi, è con Don Milani e la sua scuola di Barbiana. Intanto nel 68 si laurea e torna in Alto Adige, dove insegna per 4 anni. Lì fonda con altri giovani sudtirolesi la rivista Die Brücke, Il Ponte. Negli anni caldi della contestazione studentesca si avvicina alla sinistra extraparlamentare, aderisce a Lotta Continua e si trasferisce a Roma, dove fa l'insegnante e il militante. Ce ne parlano l'economista Guido Viale e lo storico Fabio Levi. Io ho conosciuto Alex Langer nel 72 o nel 73 a Roma. Eravamo entrambi militanti di Lotta Continua. Io mi occupavo, lavoravo nella redazione del quotidiano e lui, siccome era una persona che conosceva moltissime lingue, aveva già tessuto diversi rapporti internazionali, si occupava molto delle questioni dei nostri rapporti con organizzazioni estere. Lotta Continua aveva delle sedi in Germania e lui, che sapeva il tedesco, che conosceva bene quella situazione, è stato mandato a lavorare in quella realtà. E in particolare, fin dall'inizio, lui aveva un orizzonte europeo nell'affrontare i problemi che a noi in gran parte mancava, quindi il suo è stato anche un apporto intellettuale non indifferente. Teneva moltissimo a non fare il militante di professione, riteneva che fosse molto importante riuscire a mantenere una relazione diretta con le persone, con il lavoro, con la realtà concreta. Anche se Lotta Continua come movimento si scioglie nel 76, il giornale continua la sua attività. Langer scrive ancora articoli e per un periodo firma anche come direttore responsabile. Alexander Langer non soffre la sindrome del reduce, dell'uomo deluso dalla politica. Già nel 78 viene attratto dalla Primavera Sudtirolese, un movimento soprattutto giovanile nato nella sua regione, che vuole superare le barriere interetniche. Così torna a Bolzano e con il gruppo Nuova Sinistra, nel novembre di quello stesso anno, viene eletto per la prima volta consigliere provinciale. Soprattutto in Germania Langer osserva e studia i movimenti verdi. Comprende che è arrivato il momento di superare ogni ideologia, di rifondare la politica su temi ambientali e diventa così tra i leader del movimento politico dei Verdi in Italia e in Europa. Ce ne parlano la giornalista Marina Terragni e l'economista Guido Viale. Erano gli anni Ottanta, a Milano abbiamo fondato in alcuni la Lista Verde, e quindi eravamo la Federazione delle Liste Verdi, lui naturalmente era la personalità più eminente. La sua militanza ambientalista è stata molto precoce, soprattutto in Italia, forse essendo lui di lingua tedesca aveva respirato e sentito qualcosa che stava già ribollendo in Germania, ma in Italia è stato assolutamente un anticipatore. Alex ha avuto la capacità di anticipare delle questioni che sono diventate decisive. Parlare di questione ambientale oggi sembra una cosa normale, parliamo di ambiente e lavoro e sviluppo come quasi dei sinonimi. Ecco, per lui erano cose già vive. Nei milioni di anni precedenti la capacità di rigenerazione della Terra, del pianeta, era largamente superiore all'impatto dei viventi. Oggi questo equilibrio, questo confine è già violato, ed è violato non perché ne abbiamo bisogno, è violato sostanzialmente per ragioni di mercato, per ragioni predatorie. Così parla Langer nel 1986 ad Assisi. Langer non è un ecologista, non pensa ad un movimento specializzato nelle questioni ecologiche, ma ad una forza politica giovane, europeista, che consolidi la prospettiva europea. Ne parla lui stesso il 31 maggio del 94 a Tribuna Politica. La scelta è un po' tra uno sviluppo di lunga durata, in cui tutti quanti ci accontentiamo di un po' di meno, e uno sviluppo drogato che aumenta le distanze, per esempio, tra ricchi e poveri. Secondo Langer, per il cambiamento sociale ed economico radicale richiesto dalla crisi ambientale, è necessario un cambiamento interiore in tutti dello stile di vita. Ne parla ancora lui ad Assisi nel 94. Voi sapete qual era il motto che il barone de Coubertin ha riattivato per le moderne Olimpiadi? È il motto del Cizius, cioè più veloce, Alzius più alto e Forcius più forte, più possente. Oggi queste tre parole potrebbero essere assunte bene come quintessenza della nostra civiltà e della competizione della nostra civiltà. Io vi propongo proprio il contrario, di capovolgere ognuno di questi termini, più lenti invece che più veloci, più in profondità invece che più in alto e più dolcemente o più suavemente invece che più forte, con più energia, con più muscoli, con più, insomma, più roboanti. Volare alto non vuol dire più competizione, più forza, più guadagno, più ricchezza, più... No, volare alto vuol dire volare alto seguendo le proprie idee, i propri ideali, le proprie speranze, i propri valori, credendo nell'uomo, nell'umanità, credendo nella possibilità di costruire assieme un modo di convivenza che sia diverso. Avete sentito Lidia Leonelli Langer, cognata di Alexander Langer, su Mix 24 con la storia di questo pionieristico leader del movimento dei Verdi in Italia e in Europa. Continuiamo subito dopo la viabilità. Mix 24, la storia. Bentornati a Mix 24. Quella che stiamo raccontando oggi è la storia di un costruttore di ponti, un esploratore di frontiera, il leader dei Verdi, Alexander Langer. Ambiente, ecologia, battaglia contro il nucleare sono i tre grandi temi del Partito dei Verdi. Con il buon successo alle elezioni politiche dell'87, due anni dopo i Verdi arrivano al Parlamento europeo. Alexander Langer, eletto nella circoscrizione nord-est, entra a Strasburgo e diventa presidente del gruppo Verde Europeo. Ce ne parlano il suo collaboratore Edi Rabbini, presidente della Fondazione Langer, e l'economista Guido Vialli. Come era nel suo costume politico, di lavoro politico, ha creato uno staff di persone che lavoravano con lui, con l'idea che il seggio del Parlamento doveva diventare un luogo aperto a tutti i cittadini. Aveva stabilito il suo stipendio uguale a quello che lui prendeva come insegnante. Mese per mese, a quell'epoca c'era già internet, quindi lo si poteva fare online, lui pubblicava un resoconto minuzioso di come aveva speso il suo stipendio di parlamentare e i rimborsi spese delle diarie. Attraverso lui ho conosciuto con Bendit e Fischer e questa gente che veramente ha portato avanti la politica generalmente in Europa. Lui era europeo, era italiano, era sudtirolese, però con una visione che forse riusciremo a fare in 50 anni. Era molto avanti. Avete sentito Reinhold Messner. Alexander Langer si spende per tutti i grandi temi del suo impegno sociale e politico: i rapporti nord-sud del mondo, la necessità di una conversione ecologica per salvare il destino del pianeta e dei suoi abitanti, il clima, la biosfera, il disboscamento dell'Amazzonia brasiliana. Poi la guerra, la pace, la convivenza tra i popoli. Da parlamentare europeo compie infiniti viaggi, è in Tibet, in Cecenia, in America Latina, in Palestina, in Israele, nei Balcani. L'orizzonte di impegno di Langer è sempre più vasto, ma spesso i risultati tardano ad arrivare. Fa il militante da oltre 25 anni, da dove prendi le energie per fare ancora? Langer lo chiedeva a se stesso già qualche tempo prima. Ce ne parlano lo storico Fabio Levi, Edi Rabbini, collaboratore di Langer. Langer non diceva mai di no. Quando gli chiedevano qualcosa, faceva di tutto per poter dire di sì. Si caricava di una quantità di responsabilità assolutamente pazzesca. Questo ha fatto sì che il ventaglio delle sue iniziative si allargava sempre di più e lo caricava di responsabilità sempre maggiori. Lui più volte, diciamo, ha pensato di ritirarsi. Il 93 fu uno di quei momenti in cui discusse anche con me, penso anche con altri, della possibilità di dare un addio alla politica, di pensare a un altro tipo di vita. Poi, quando arrivò la scadenza del rinnovo della candidatura europea, ebbe moltissime pressioni e poi appunto venne ricandidato e rieletto. Lui era anche molto deluso da qualche suo compagno politico che in realtà tentava di eliminarlo e a prendere il suo posto. Era molto deluso perché ha detto: ma tutta questa gente in realtà non ha un'idea politica, non mi segue politicamente. Volevano buttarlo fuori dal Movimento Verde. Avete sentito Reinhold Messner. Alexander Langer cerca di superare difficoltà e delusioni. Torna in Alto Adige, la sua terra d'origine. A Bolzano ci sono le elezioni comunali e Langer decide di candidarsi a sindaco della città. Ce ne parlano Francesco Palermo e poi Fabio Levi e Reinhold Messner. Langer si era provocatoriamente candidato alla carica di sindaco di Bolzano, pur sapendo di essere automaticamente escluso perché non aveva reso la dichiarazione di appartenenza al gruppo linguistico. C'è una vendetta, una brutta vendetta nei suoi confronti, certo, in applicazione della legge, ma di una legge che lui aveva rifiutato come legge ingiusta. Gli hanno bloccato la possibilità ed è chiaro che un politico di quella capacità, di quel calore che aveva, sperava di cambiare la città. Lui voleva dimostrare a Bolzano che lui è capace di fare vivere insieme, non soltanto vivere a parte, vivere insieme intensamente il gruppo italiano e il gruppo tedesco a Bolzano. E questo era il suo sogno dopo tutta la tragedia che abbiamo visto nel Balcano. Non gli hanno fatto fare e questo era l'inizio della sua decisione, probabilmente lascio questo campo. Appena escluso dal voto come candidato sindaco di Bolzano, Langer apprende che è avvenuto un nuovo massacro nella ex Jugoslavia. I serbo-bosniaci hanno colpito Tuzla, amata città interetnica. Subito dopo la strage di Tuzla, a Cannes si incontrano tutti i capi di Stato europei. È il 26 giugno 1995 e si tiene un vertice per la drammatica situazione in Bosnia. Alexander Langer è lì a manifestare con alcune migliaia di persone. Dice: basta con la neutralità. In questa guerra ci sono aggressori e aggrediti, criminali e vittime. Bisogna che l'Europa testimoni ed agisca. Ascoltiamo lui stesso. Tentare di aprire la strada verso alcuni obiettivi che oggi possono forse non fermare la guerra. Un giorno però quest'uomo si accorse di essere stanco, stanchissimo, di essersi speso per migliorare il mondo intero. Cercò i lamponi magici, i lamponi che permettevano di trarre forza dalle piccole cose. Non li trovò, provò con le albicocche. Pur essendo del colore del sole, non ebbero lo stesso effetto. L'uomo, che a quel punto era veramente stanco, decise di fermarsi e di lasciare che fosse qualcun altro a continuare ciò che riteneva essere giusto. Avete sentito Sabina, nipote di Alexander Langer. I pesi mi sono divenuti davvero insostenibili. Non ce la faccio più. Me ne vado, più disperato che mai. Non siate tristi. Continuate in ciò che era giusto. Alexander Langer lascia scritte queste parole nel suo addio alla vita. È il 3 luglio del 95, a 49 anni, si impicca ai rami di un albicocco, a Pian dei Giullari, appena fuori Firenze. Gianni Mattioli, leader storico dei Verdi Italiani, tra i fondatori del partito insieme ad Alexander Langer. Lei lo ha conosciuto, chi è stato? Alex porta un altro punto di vista, non quello elitario di queste associazioni a quell'epoca, ma una idea di quella che poi si chiamerà la società sostenibile, praticata da tutti, nella vita di tutti i giorni, con una visione del rispetto per delle attività, rispetto delle cose, oltre che ovviamente degli ecosistemi. Una vera e propria conversione nello stile di vita di tutti, diceva sì, lui. Ma sì. Com'è possibile che il Partito dei Verdi sia poi scomparso in Italia? L'Italia è un paese in cui non c'è la nozione di bene comune, del sacrificarsi per conseguire il bene per tutti. Cosa resta oggi dell'insegnamento allora di Langer? Bisogna avere ben chiaro l'animo diffuso in Italia, in cui fatta bella casetta mia, poi quello che succede fuori poco mi interessa, perché fuori è il fuori calpestato dallo stivale dell'invasore. Certo, oggi una problematica ambientale nell'opinione pubblica è più avanzata che rispetto alla cultura ufficiale e men che meno alla cultura politica. Com'è possibile che un uomo come Langer, con una fede così forte, si sia suicidato? Devo dire che rispetto alla ricchezza, alla fantasia, Alex è ritrovato un po' prigioniero di quelli che vivevano un po' sulle sue idee, sulla sua luce, e questi non erano immediatamente quelli con cui uno forse scambia i suoi pensieri più dolorosi. Grazie. Ringrazio Rachele Bonanni, Pietro Gentile, Manuel Guerrini, Antonella Migliaccio in redazione, Alessandro Chiappini e Valerio Rocchetti in regia. A domani.